addio. Forse mai nel circo tornerà quel pagliaccio che aveva sopra il viso una maschera buffa ed il pianto nel suo cuore. Rideva di me, del povero pagliaccio, quella che mi disse t'amerò. Io l'amavo e mentre lavoravo con il cuore felice, sorridendo mi ingannò. Volando sorrideva lassù, ma non per me, ma non vicino a me. Il visto mio mondo che suo non è, lasciarmi per sempre solo, solo, solo, tanto solo. Mondo crudel, è l'ora dell'addio. Partirò per non dover morir. Ho pulito il mio viso di pagliaccio ed il mio cuore l'ho reso già di ghiaccio. E voglio scordare che un dì mi ha tradito. Io voglio difendermi ancora dall'amor così. Rideva lassù, ma non per me, ma non vicino a me. Il visto mio mondo che suo non è, lasciarmi per sempre solo, solo, solo, tanto solo. Mondo crudel, è l'ora dell'addio. Partirò per non dover morir. Ho pulito il mio viso di pagliaccio ed il mio cuore l'ho reso già di ghiaccio. E voglio scordare che un dì mi ha tradito. Io voglio difendermi ancora dall'amor così, dall'amor così.